avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. È ormai tradizione che io inizi il lunedì, che solitamente è connotato da un pessimo tempo, con trasmissioni che sollevano l'animo, che inducono alla gaiezza. Oggi, siccome è una bella giornata, vi darò qualche grattacapo e qualche pensierino. Vi siete mai domandati perché sia così difficile il rapporto intergenerazionale? Lo è sempre stato, abbiamo sempre avuto problemi con i nostri genitori, abbiamo problemi con i nostri figli, storicamente c'è sempre stato tramandato che esiste un necessario salto, un necessario omicidio simbolico e rituale che debbano fare i figli sui genitori e un necessario taglio radicale dei legami affettivi, delle tenerezze, del senso di possesso che i genitori debbano fare sui figli. Ma esiste una fattispecie particolare, connotata e legata proprio alla nostra contemporaneità, per cui il rapporto fra generazioni è diventato un rapporto quanto mai conflittuale, per cui i vecchi vorrebbero mangiarsi i giovani. Perché? Perché forse lo spazio a disposizione di tutti sembra molto più esiguo, perché a un certo punto si è fermato qualcosa, si è fermato quel giusto ricambio, ecco, la necessaria dinamica per cui avvenissero tutti quei processi che epicamente hanno sempre segnato il passaggio da una generazione all'altra. E cosa è accaduto? Facciamo un passo indietro. Non hanno fa circa mandammo una lettera che scrisse un signore pubblicandola su un giornale e fece veramente molto scalpore. Figlio mio, stai per finire la tua università. Sei stato bravo. Non ho rimproveri da farti. È per questo che ti parlo con amarezza, pensando a quello che ora ti aspetta. Questo paese, il tuo paese, non è più un posto in cui sia possibile stare con orgoglio. Viviamo in una società divisa, rissosa, fortemente individualista, pronta a svendere i minimi valori di solidarietà e di onestà in cambio di un riconoscimento degli interessi personali, di prebende discutibili, di carriere feroci fatte su meriti inesistenti. A meno che non sia un merito l'affiliazione, politica, di clan, familistica. Questo è un paese in cui, se ti va bene, comincerai guadagnando un decimo di un portaborse qualunque, un centesimo di una velina o di un tronista, forse poco più di un millesimo di un grande manager che ha all'attivo disavventure e fallimenti che non pagherà mai. Incapperai nei destini gloriosi di chi, avendo fatto magari il taxista, si vede premiato, per ragioni intuibili, con un consiglio di amministrazione. Questo è un paese in cui nessuno sembra destinato a pagare per gli errori fatti. Per questo, col cuore che soffre più che mai, il mio consiglio è che tu, finiti i tuoi studi, prenda la strada dell'estero. Scegli di andare dove ha ancora un valore la lealtà, il rispetto, il riconoscimento del merito e dei risultati. Mi dirai che è tutto vero, che le cose stanno proprio così, e anche a te fanno schifo, ma che tu, proprio per questo, non gliela darai vinta. Preparati comunque a soffrire. Con affetto, tuo padre. La lettera al figlio uscì su Repubblica. A scriverla fu Pierluigi Celli, direttore generale della LUIS, Libera Università degli Studi Guido Carli, che oggi ritorna su questo tema a distanza di un anno e ha scritto La generazione tradita, gli adulti contro i giovani, edizione Mondadori. Pierluigi Celli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci è voluto un annetto circa per elaborare il malcontento. Allora tu fossi accusato di sfascismo, tradimento del fatto che tu fossi in realtà anche direttore generale di una importante università. Dici, allora tu che fai? Oppure altri ti dissero che questo era un tuo egoismo legato soltanto ai tuoi figli, uno come se salvasse prima che la barca affoga i topolini a cui tiene affettivamente. E ricordo che ci furono anche i tuoi ex amici, ex colleghi, persone che hanno sempre condiviso con te i punti di vista, che se la presero tanto. Tu hai sentito il bisogno di ritornare su questo argomento a distanza di un anno, in maniera forse costruttiva ma anche lievemente amara, poi ne parleremo. Riprendiamo il punto, ci fai una sintesi di quello che accadde quando avevi scritto questa lettera? Dunque, la lettera nasce dal fatto che Io stavo verificando da un po' di tempo, proprio per il mestiere che facevo, nel senso che io sono in un'università che è una università privata della Confindustria, ma mi occupo prevalentemente, proprio per la mia esperienza, di passaggio tra l'università e il lavoro. Quindi seguivo l'occupabilità dei laureati una volta terminati i loro studi. Che è lo target più importante nell'esistenza di un essere umano contemporaneo. Sì, però era anche la cosa più trascurata, meno supportata, sulla quale si era fatta meno attenzione e per la quale le università in genere hanno pochissimo investimento. Tutto questo portava a una difficoltà oggettiva, soprattutto derivante anche dalla crisi che stava attanagliando un po' il paese, di occupare positivamente i ragazzi, cioè di vedere in qualche modo coronate le loro aspirazioni e i loro studi con posizioni di lavoro coerenti e confacenti. Anzi, aumentava sempre di più anche la difficoltà di trovare un punto di riferimento e aumentavano parallelamente le pressioni, per cui se tu avevi una buona relazione, una buona raccomandazione, se eri inserito in un circuito familiare familistico di qualche tipo, avevi più facilità a trovare lavoro. C'era molta vergogna in tutto questo e c'era anche rabbia abbastanza rilevante da parte dei ragazzi. Su tutto questo avevo cercato di scrivere più volte sui giornali con scarsissima eco. Allora a quel punto ho cercato di trovare una formula, che era una formula certamente retorica, la formula della lettera al figlio è un espediente retorico che ha una lunga tradizione. Ho esasperato le situazioni abbastanza per poter essere recepite immediatamente, e quello che è nato poi dopo una specie di terremoto, però il tema è stato riportato all'onore delle cronache e da allora continua a essere in qualche modo esaminato, scandagliato eccetera eccetera, quasi quotidianamente dai giornali. Ecco, non può essere per i Giuselli che in realtà poi questo problema ognuno cerchi di risolverselo con le proprie risorse individuali, familiari, personali, al di là degli scandalizzati, al di là delle vergini vestali, al di là di quelli che ti dicevano e ancora ti diranno, è una pericolosissima rappresentazione precaria del nostro paese, cosa penseranno all'estero e via dicendo. Poi alla fine l'ho riascoltata adesso, un anno che non la riascoltavo, non fa una piega, non ci si può aggiungere nulla, esattamente così, tutti lo sappiamo, però alla fine ognuno di noi fa di necessità virtù. Sì, lo sappiamo, io ho un figlio che ha 15 anni, che fa il liceo, e trovo devastante la maniera con cui affronta la disciplina scolastica. Io vengo dai salesiani, come anche te, ci hanno segato la coscienza per anni, però almeno capiamo che quello era il mondo a cui, di riferimento a cui ci si faceva. Potevamo distruggerlo, non seguirlo, ma era ben chiaro, preciso, limitato. Oggi gli insegnanti non sanno più a che mondo riferirsi, sono estremamente passatisti rispetto alla cifra più chiara della contemporaneità, non vedono il mondo che li sta attraversando. Perché? Perché sono ancorati al privilegio di ancora appartenere per ultimi, forse saranno gli ultimi, a una classe che ha dei punti fermi acquisiti e consolidati, ma gli manca tutto quel sostrato di riconoscimento del mondo passato. Perlomeno era una cultura, se vuoi libresca, se vuoi nozionistica e tutto, però era qualcosa. Oggi vivono nell'indifferenziato, non sono né carne né pesce. Ho cercato di far capire a mio figlio che potesse esistere una via di passaggio, un'integrazione fra questi due mondi, e mi guarda come si guarda un pazzo. E non ha nemmeno lui gli strumenti per capire il passato e per definire la contemporaneità. Vive come peccato quello che invece sono i segni più fulgidi della sua esistenza, ancora li vede come qualcosa da fuggire, perché la scuola fatta di trentenni, quarantenni, cinquantenni ancora gli fa capire che bisogna riferirsi a qualcosa che non è quello che a lui piace. Ma cosa sta accadendo qui? Ma io credo che sta accadendo quello che è il prodotto di una grande confusione. Perché noi tutto sommato abbiamo perso i punti di riferimento nostri, quelli tradizionali eccetera eccetera, ma contemporaneamente non abbiamo avuto la percezione che senza punti di riferimento soprattutto i più giovani hanno una difficoltà ad orientarsi grandissima. Noi i nostri li abbiamo persi e in qualche modo forse ce li ricordiamo, qualche volta li rimpiangiamo, qualche volta quindi soffriamo per averli traditi eccetera eccetera. I più giovani non hanno punti di riferimento, non avendo punti di riferimento vivono in una quotidianità, come dire, esasperata. la quotidianità esasperata, senza storia, perché loro storie non ne hanno, cioè non è che loro possono collegarsi a qualche cosa, cioè, sono nati dopo, in genere dopo Tangentopoli addirittura, oppure era un piccolo, l'ultimo evento un pochino straordinario di questo paese, possono al massimo in qualche modo legarsi al fenomeno Berlusconi, ecco, se vogliamo. Sì, pro e contro Berlusconi, forse l'11 settembre è il momento epico che hanno avuto la sensazione di aver attraversato. Ma però sempre più labile. Erano già abbastanza giovani anche allora, quindi non so quanto li... gli adulti all'interno dei quali loro vivono, quindi la famiglia eccetera eccetera, è una famiglia molto dispersa, molto, molto disarticolata, con adulti che a loro volta devono elaborare insoddisfazioni profonde o comunque perseguire strade che sono estremamente individualiste, quella la logica acquisitiva, la logica un po' predatoria, per cui tutto va in qualche modo sfruttato nel presente perché il futuro non si sa che cosa possa riservare, e in ogni caso prendiamoci tutto quello che ci serve e tutto quello che fa per noi. In questo contesto, la scuola, l'università, che avrebbe dovuto prendere in mano anche la capacità di offrire quantomeno sponde o punti di riferimento, è essa stessa molto disastrata, perché tutto sommato anche le riforme che sono state fatte l'hanno disarticolata, e soprattutto non ha capito una cosa fondamentale, che la preparazione dei ragazzi al mondo del lavoro e al cosiddetto mercato, nel quale necessariamente, inevitabilmente, ha componenti completamente diverse. Noi gli stiamo preparando un mondo estremamente frammentato in cui la parzializzazione delle occupazioni sarà rilevante, gli diciamo che questo per loro sarà in termini di flessibilità quello che dovranno affrontare, e della flessibilità non gli facciamo sperimentare niente, anzi noi continuiamo a insegnargli le cose per blocchi, per materie eccetera eccetera, possibilmente scattera, senza alcuna flessibilità di rapporto, di raccordo, di modalità, cioè noi continuiamo a insegnargli in maniera più tradizionale, in maniera più burocratica, più standardizzata, meno flessibile. Ma la flessibilità è un po' come una volta erano i valori morali, i valori etici, i valori legati al comportamento, si predicavano agli altri ma si guardava bene a tenersi per sé ciò che dava più soddisfazione. 800 24 00 24, il tema è proprio questo, il conflitto generazionale vissuto non soltanto come un punto di vista individuale ma se possibile tenendo conto del punto di vista di entrambe le generazioni che si scontrano. Ho avuto un'esperienza diretta, concreta, reale ed epidermica l'altra sera. Facevo una trasmissione per la notte di Publivori in cui si parlava di pubblicità, naturalmente parlavo della mia formazione, di ragazzo degli anni 50 che vedeva la pubblicità come un primo motivo di gioia, di promessa di un mondo diverso a quello che ci lasciavamo alle spalle, e di qualcosa che ci dava la gioia di acquistare, di partecipare al grande mondo dei detersivi e della felicità dei cuscinini di formica. Raccontavo questo e qualcuno ebbe giustamente qualcosa da dire. Volevo dirle semplicemente che sono un po' stanca di dover sempre sentire quanto era bello, quanto era epico, quanto era straordinario il vostro tempo, sempre a ripetere del vostro tempo. Sì, mi sono parecchio stufata tutto qui. Mi piacerebbe magari parlare di quanto è bello anche il nostro di tempo, la nostra di epoca. Ho solo 23 anni, credo che sia straordinaria anche la nostra di epoca. Finalmente una ragazza di 23 anni che mi parla della nostalgia e del fascino del tempo che sta vivendo, che è l'equazione più difficile da raggiungere. Pierluigi Celli dedica molto al tempo nel suo libro, alla esatta cognizione del tempo, al tempo in cui uno deve cominciare a prepararsi a lasciare il testimone a qualcun altro. Forse questo è il vero problema. Questa ragazza ci ha telefonato, l'abbiamo adesso al telefono, l'abbiamo richiamata questa mattina. Buongiorno. Buongiorno. Diana, ti chiami, 23 sì. anni. Sì, 23 anni, sì. Ecco, sei riuscita a trovare il coraggio poi di partecipare alla trasmissione. L'ho sentita questa mattina, non era molto decisa. Vediamo se riesce a far capire a me e al direttore generale della LUIS cosa significa per te essere affascinati dal tempo che si sta vivendo. Beh, cosa vuol dire essere affascinati? Cioè, nel senso, quello che noi siamo, quello che poi saremo, sta tutto nelle nostre mani, nella nostra fiducia in noi stessi. non ho avuto chissà quali insegnamenti e che altro di chissà quali cultura, ho avuto solo la dimostrazione che se si vuole si raggiunge un obiettivo, se si con la fatica ovviamente, perché purtroppo in televisione, in qualsiasi altro mondo, si vede che con la facilità, con la bellezza, con il saper aggirare le persone si raggiunge un obiettivo più facilmente. Visto che io sono, mi ritengo una persona onesta e una persona che vuole del rispetto e dà del rispetto, questa strada assolutamente non la sceglierei mai. Scelgo piuttosto la strada della fatica, del dover sacrificare alcune cose per altre, del dover sacrificare magari sabato sera, andare a ballare, a divertirsi per appunto trovare la cioè tu ti coltivi giusta. Diana, tu ti coltivi Diana, nel senso, ti rendi conto, mo te lo dico, adesso te lo dico e ci rimarrai un po' colpita, tu stai dicendo esattamente quello che io mi sento dire dai miei genitori, anno 1970-72, mi facciano esattamente il discorso che tu fai adesso a noi. Pierluigi Celli, Diana resta in ascolto. Un esempio sui generis, la famosa mosca bianca è stata trovata, la ragazza che non vuol fare la velina, la ragazza che non segue i modelli di facile tutto e subito, la ragazza che si coltiva. Questa ragazza probabilmente fra qualche anno si sarà inventata qualcosa, avrà un posto di privilegio nella società o rimarrà frustrata e delusa, dice faccio meglio a rifarmi tette e naso e buttarmi anche nella mischia. No, io credo che allora, per la mia esperienza, io ormai sono vecchio, quindi ho un'esperienza di uno che guarda un po' da lontano, però lavorando molto con i giovani, quindi io ne vedo 30-40 al giorno, individualmente, per gruppi, eccetera, eccetera, mi rendo conto che i giovani di oggi, se tu, come dire, li curi, se tu gli stai vicino, se tu gli dai, come dire, anche una sponda senza pretendere di intervenire continuamente, sono giovani straordinari. Sono giovani straordinari che hanno come dire, una voglia non solo di imparare, ma una voglia anche di impegnarsi, una voglia come dire, di uscire fuori e di farsi valutare, rispettare, eccetera, eccetera, che è grandissima. È lì che nasce molto spesso come dire, il disagio, nel vedere le potenzialità che questi hanno e nel vedere contemporaneamente come dire, la scarsa attenzione, l'indifferenza, il degrado che la società riserva loro nelle modalità con cui poi loro devono entrare all'interno del contesto. Che Diana, è... ma quello che dice Aspi Lucelli non trovi che derivi dal fatto che la tua generazione rispetto ai genitori, agli adulti, a quelli che vi hanno preceduto in questo momento degli strumenti, ha proprio geneticamente una diversità? Voi siete capaci di moltiplicare il vostro tempo, di sovrapporre il vostro tempo, di scomporvi e distribuirvi in tante maniere, e ancora avete a che fare con persone che hanno un solo tempo e una sola realtà. Il discorso è sempre quello, cioè nel senso che il tempo, la giornata, comunque come si svolge, le ore sono quelle. Il modo di svilupparle sta a ogni persona, nel senso che al posto che la sera piazzarsi sul divano a guardare la televisione, la si potrebbe utilizzare in ben altri modi, cercare di coltivare altre passioni, cercare di raggiungere qualcos'altro. Poi io non ho la presunzione assolutamente di raggiungere chissà quali livelli, magari con il sacrificio, con la fatica che sto facendo arriverò semplicemente a guadagnarmi 1000 euro al mese per tutta la vita. Beh, oddio, degli obiettivi un po' miseri, se ti sacrifichi per 1000 euro puoi fare la babysitter e la sera andare a ballare, te lo consiglio da subito, se il tuo sacrificio per 1000 euro al mese. Ma sicuramente, guardi, io sono una che non voglio assolutamente passare per quella puritana che è a casa, chiesa, assolutamente no. Mi piace divertirmi, mi piace ballare, mi piace far tutto. Grazie. Ma a volte bisogna sacrificare questo divertimento per altre cose. Sì, però sai, Diana, non ti voglio, figurati, sono felice tu abbia chiamato e tutto, però hai dei punti di riferimento, se mi permetti, che sono un pochino una gabbia, perché tu hai detto la sera si può fare altre cose, ma perché la tua giornata è ancora scandita in giorno, mattina, sera, pomeriggio? In ogni momento si possono fare altre cose. Sì, è scandita perché d'altra parte durante il giorno lavoro, quindi lavorando. Cosa fai te? Io adesso lavoro in un negozio di parrucchiera. Ah beh, però ti ho capito, però qual è il tuo bersaglio, a cosa miri? Aprirti un tuo negozio? Ad avere un non so cosa mi, cioè sì, so cosa miro a diventare una professionista nel campo, perché io ovviamente ho avuto un passato diverso, ho passato 5 anni in ragioneria, ho studiato per ragioneria, ho lavorato in uno studio commercialista, fino a che mi sono accorta che non era la mia strada. Ho preso un'altra strada, infatti io vado a scuola la sera, di giorno lavoro e niente. Perché anche il discorso, posso dire una cosa? Che tanti giovani, tanti ragazzi si lamentano di quello che hanno, di quello che il lavoro non piace, questo e quest'altro, però continuano a lamentarsi senza fare nulla. Una volta che la giornata è finita di lavoro, tornano a casa e si trovano un diversivo nella televisione, in Facebook, in tante altre cose. Però mi sembra, fermiamoci qua, scusami, credo dare la linea alle informazioni della borsa, è importante anche rispettare i tempi. Mi sembra però chiaro e logico che si muove ancora Diana in un'organizzazione dei propri obiettivi molto tradizionale, molto legata al senso dei valori, al senso del buono e via dicendo. Mi sembra però abbastanza restia a considerare un valore, considera Facebook un passatempo, considera Facebook una perdita di tempo, quello che in realtà sono le grandi chance e la grande novità del tempo sta vivendo. A tra un istante dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Devo inventarmi qualcosa di grosso per farmi notare dai circoli studenteschi. Perché? Perché sono esclusivi, divertenti e ti cambiano la vita in meglio. La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. Questa idea potrebbe valere milioni di dollari. Milioni? 800240024, oggi stiamo parlando di complessità nel rapporto intergenerazionale. Chi tiene in mano le redini, le leve, i posti chiave del vecchio mondo non vuole cedere le sue cabine di comando, le cabine di regia. Intorno come nei film tradizionali del genere zombesco si aggirano, perlomeno dal punto di vista di chi li guarda dall'alto, i giovani senza identità, senza scopi, senza preparazioni, si girano appunto come zombie alla ricerca di qualcosa che ricordano che forse a loro potrebbe appartenere o dovrebbe appartenere, e si agitano verso le porte chiuse del grande supermercato dove sono asserragliati gli ultimi rappresentanti armatissimi fino ai denti del genere umano, che sono i vecchi. Tutto questo è una mia liberissima e fantomatica interpretazione del libro di Pierluigi Celli, direttore generale della LUIS, La generazione tradita, gli adulti contro i giovani, edizioni Mondadori. Abbiamo sentito un stralcio del film Social Network, che racconta l'epopea di Mark Zuckerberg, l'ideatore, il coideatore, diciamo, perlomeno nella lettura del film, di Facebook, un giovane dell'università di Harvard che girava con le ciabatte, totalmente disinteressato alle ritualità, alle liturgie della sua università, totalmente asociale, però ebbe la genialità di sentire il profumo del suo tempo e si inventò Facebook, si inventò qualcosa che rispondeva a un profondo bisogno di relazione dei suoi contemporanei, dei suoi amici studenti, poi sarà allargato a bisogni della società attraverso la rete che permetteva di trasformare in qualcosa di concreto immediatamente quella che era un'idea. Per Luigi Celli, rispetto a Diana che ci ha chiamato prima, quella ragazza che alla fine la sua massima aspirazione è di fare la parrucchiera e guadagnare 1.000 euro al mese, e vedeva, e questo mi ha molto colpito, la televisione, la rete, i social network come qualcosa che limitasse la sua bella figurina di brava ragazza che eticamente si propone. Non assomiglia un po' a quest'altro terrificante messaggio che mi arriva oggi sui giornali? Il terziario non ha più valore, questo preoccupa la Chiesa. Torniamo ai campi, dice De Rita, dice il Papa, torniamo all'agricoltura, al sano antico mondo contadino. Non è che l'alternativa alla dissoluzione diventa un modello etico, tutti chierichetti e tutti figli di Maria, ma il mondo si ferma ancora di più? Ma no, io credo che l'opzione vera non sia quella di regredire, di tornare a qualcosa che inevitabilmente non ci sarà più. Certo, molto spesso noi adulti siamo affezionati alle nostre età, che poi immaginavamo un'età dell'oro, in realtà l'età dell'oro non c'è mai stata, e quindi se noi rivivessimo bene quello che abbiamo vissuto ai nostri tempi, vedremo tutte le difficoltà che avevamo a quei tempi e le opzioni e le obiezioni che facevamo a quei tempi. Non c'è nessuna età dell'oro, non si ritorna a nessuna età dell'oro, l'unica cosa è vivere il proprio tempo e cercare di usarlo possibilmente in maniera tale tale da avere delle soddisfazioni, da ricavarci delle soddisfazioni e in qualche modo di fare qualche cosa che resti anche per gli altri. Io credo che il problema fondamentale tra gli adulti e i giovani in questo momento, ci sono tanti problemi ed è proprio generico parlarne così. Comunque noi, io parlo della mia età, quindi di uno che ha ormai più di 60 anni, noi viviamo ancora, come dire, la tragedia di avere dei sentimenti collettivi senza che ci sia più il collettivo. I nostri ragazzi hanno dei sentimenti molto più parziali, molto più individuali, molto più vissuti individualmente. Beh, la forza in social network, almeno come lo rappresentò il film di Mark Zuckerberg, è un uomo senza sentimenti. Senza sentimenti. Non ha sentimento. Ecco, no, non ne ha, oppure in ogni caso non li manifesta. Cioè, pare che Facebook nascesse per una delusione d'amore. Ce l'aveva con una ragazza e inventa il social network. Il fatto che noi, come dire, riteniamo loro senza sentimenti, mentre noi abbiamo ancora questa pienezza di sentimenti che abbiamo tradito poi alla fine. E credo che sia una delle cose per cui noi ci possiamo permettere il lusso di essere ipocriti, sì. Loro nemmeno questo. Loro no. No, noi siamo largamente ipocriti molto spesso, no? Loro non sono, non conoscono ipocrisia, sono come sono, magari sono un po' degradati, magari sono un po' disordinati, sono qualcosa, no, non gliene frega molto di tante cose, ma sono come sono. Sentiamo qualche ascoltatore per Luigi Celli. Ornella, buongiorno. Ornella, sono qua, ecco. Con poca voce, ma ci sono. Ecco, la sentiamo comunque. Io volevo, come ho parlato al suo operatore, volevo parlare dell'esperienza di mio figlio che è andato a fare un'esperienza di università in Canada, molto bella. Lui era l'unico studente in questa università. Una ragazza si è innamorata follemente di lui, appunto, di venire in Italia con lui, e si è laureato online perché da loro esistono queste possibilità. Ha trovato lavoro qua in Italia, ma le riesce molto difficile accettare di lavorare per 12 ore al giorno, per noi per uno stipendio ben retribuito, ma uno stipendio che sarebbe comunque la metà di quello che guadagnerebbe in Canada. E perché non è rimasta in Canada? Perché era innamorata di mio figlio ed è venuta in Italia. E il suo figlio non poteva andare lui in Canada? Non è così facile, sa? Non è così facile perché là le università e le aziende non assumono direttamente, ma tramite le ambasciate, tramite degli elenchi, delle segnalazioni che fanno le aziende dal paese nativo della persona per poter aprire gli spazi a questi ragazzi. Quindi Ornella ci ha segnalato una possibile uscita attraverso la chiave affettiva, che è esattamente l'esatto opposto di quello di cui parlavamo prima, di questo egoismo totale e spietatezza. Vediamo poi dopo. Non è vero. Cosa non è vero? Non è vero, i ragazzi si amano, sono spontanei. I ragazzi sono una cosa complessa, difficile, come esatto. Anche i vecchi, come anche gli uomini, le donne, come anche i bianchi, i neri, come anche i gialli. Esatto, ma in generale nessuno si classifica. Questi ragazzi stranieri che ho conosciuto grazie a questa internazionalità di questa ragazza qua, che è anglofona, per cui cerca di frequentare soprattutto un ambiente anglofono perché le riesce più facile, ma sono dei ragazzi splendidi che lasciano anche gli americani, gli USA, vengono a insegnare l'inglese in Italia, a Milano, per fortuna, perché in America non c'è lavoro. Io non ho passioni aprioristiche per nessuno. Io penso che dalla sapiente, intelligente e attenta fusione di ciò che c'è di meglio attorno a noi viene la risoluzione di un'equazione personale. Quello che aveva fatto Zuckerberg, non perché oggi lo voglia portare come esempio, è quello che prendeva un po' da tutti, rubacchiava, forse la sua unica e importantissima idea, che corrisponde molto all'idea della cultura che passa attraverso la rete, è che nulla appartiene a nessuno e tutto appartiene a tutti. Carlo. Sì, buongiorno. Sì, quest'ultimo tema è molto interessante. Mi sente? Sì, la sento. Sì, certo. Sì. No, e infatti volevo, si chiama condivisione. L'università italiana oggi, secondo me, è esattamente questo. Se Zuckerberg in fondo rappresenta, no, un'irriverenza di fondo verso... E anche il modello educativo che viene per la nostra università, no? A un certo punto lui abbandona la classe, oppure mi viene in mente Steve Jobs. Rompe le liturgie. Quando... Oggi all'università il professore, forse credo che nelle vostre parole di prima, forse ci fosse questa vena, si insegna ai ragazzi, prendono un corso, si imparano a memoria il materiale e in fondo, no, perché questo l'università italiana vuole che diciamo, anche la società, no? Si vuole 110 e lode, si vuole che tutti siano bravi agli esami, che dicano quello che in fondo che ha insegnato il professore. Cioè, pensate per esempio al fatto che in una facoltà di economia di alto livello spesso non ci sono corsi che trattano proprio di queste nuove realtà, no? Facebook e Google hanno rivoluzionato l'economia su internet. Sì, vengono ancora considerati, so, poi lo dico io, sembra che parli il fanatico che tira acqua al suo mulino, vengono ancora considerati un aspetto ludico e quasi trasgressivo. Stai tutto questo Google, tempo davanti al computer, perdi tempo su Facebook. Sì, perdo molto mio tempo, è tempo che riguadagnerò, è tempo che comunque fa parte della sperimentazione del momento che sto vivendo, quindi non è tempo del tutto buttato. A tra un istante dopo le informazioni dal traffico che incombono. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Avete fregato il sito! Dicono che abbiamo rubato Facebook e che... Lo so cosa dicono. Ed è vero. Un milione di dollari non conta. Sai cosa conta? Un miliardo. Non reggerà il passo. Sta crescendo molto più in fretta di quanto potessimo immaginare. Portiamolo davanti a una corte federale. Non vedo l'ora di guardarti mentre ci firmi un assegno. Se foste gli inventori di Facebook, avreste inventato Facebook. C'è qualcosa che dovresti dire. Potresti aver distrutto tutto quello a cui ho lavorato. Abbiamo lavorato. Ti piaceva fare lo zimbello? Vuoi tornare ad esserlo? Mark! È il nostro momento. Ci siamo questa mattina appassionati all'epopea di Zuckerberg, però visto questa mattina nella chiave in cui stiamo analizzando il rapporto fra generazioni riguardo alla possibilità di prendere il testimone della guida del proprio tempo tra generazione anziana e generazione giovani, ci sembra uno degli esempi più calzanti. Stamattina stiamo parlando con Pierluigi Celli, il suo ultimo libro, La generazione tradita, gli adulti contro i giovani. Pierluigi Celli, vedo che questo esempio comunque di Zuckerberg ci permette di essere letto proprio come una parabola. Allora, lui abbiamo detto è spietato, però nasce da una incomprensione in una relazione, maniera superficiale, bambinesca di affrontare la relazione, l'idea del social network. Il social network si sviluppa come un'idea prendendo un po' dappertutto, un po' da tutti. La vera chiave è, ci dicevamo prima, quando a un certo punto i due studenti di Harvard, che venivano da grandi famiglie, ipertitolati, titolari del club esclusivissimo, ben vestiti, organizzati, già con una mente manageriale, che avevano il loro progetto del social network di facoltà, ma era parziale rispetto a quello che aveva pensato Zuckerberg, vanno dal loro preside portando l'articolino del regolamento interno perché si ritenevano defraudati di qualcosa. Cosa gli risponde? Ma era il rettore. Il rettore, sì. Il rettore, il quale gli dice: dice, se alla vostra età vi attaccate alle regole per affermare i vostri diritti, cominciate male. E il rettore è uno che non ha fatto semplicemente una carriera accademica, perché prima ha fatto una carriera politica, è stato in impresa, eccetera, eccetera. Che è un archetipo fondamentale per capire come una università possa aprirsi al mondo. Cioè, bisogna che abbia alla guida o nell'accademia persone che non conoscono solo quel mondo, che è un mondo alla lunga autoreferenziale e molto burocratico, che ha sempre alimentato se stesso, quindi in qualche modo alzando barriere rispetto agli altri. La possibilità di avere delle università in cui si generano idee, in cui le idee vengono fuori eretiche o ortodosse che siano, dipende anche dai contesti che riescono a creare proprio quelli che guidano quell'università. Ma Pierluigi, esiste secondo te alle nostre attitudini un esempio simile così sconvolgente? Una generazione che si attacca al dogmatismo, ai valori tradizionali, alle regole, alle sicurezze, che può accadere in un momento così di confusione, è un adulto che in realtà impone loro, suggerisce loro, anzi in maniera anche molto violenta a un certo punto, mandandoli via quasi a calci nel sedere, dice a loro: non capite niente perché va attaccata alle regole. Esiste qualcosa del genere da noi? Ma dunque, da noi ha più difficoltà, perché già noi le regole non le osserviamo di nostro di per sé, e quindi il fatto che qualcuno ci inviti a non osservare le regole sarebbe, come dire, un incentivo a fare quello che è lo sport nazionale. Lì il problema è diverso, quello è un contesto in cui, come dire, le regole valgono in generale, ma si sa che l'innovazione nasce dal tradimento delle regole. Va bene, tu devi garantire. È lo sregolato che porta innovazione. È lo sregolato, è la tradizione delle regole quello che porta. Cioè, l'innovazione non si dà senza delirio, senza uscita dalla lira, come dicevano i cari vecchi latini. Ci scrive un professore che è dell'Università della Calabria, Nicola Frega. Lo dico perché lo sto leggendo su Facebook, ma lo conosco. Parte del tuo libro nasce, addirittura mi sembra che proprio la tua lettera nasce dopo un giro che hai rifatto in Calabria, avevi visto delle situazioni. Di Gioia. E lui mi dice, perché lì ci sono delle situazioni pilota invece, al di là dei pregiudizi, dice, quello che ci stiamo dicendo tra noi professori, che in realtà il vero problema è che una volta, lui insegna ingegneria gestionale, quindi è proprio il tema di cui stiamo parlando. Cioè, prima si insegnava producendo in modo pianificato, un insegnamento potrebbe essere riproposto un numero N di volte. Io ti insegno questo, ti do delle regole, ti do uno strumento che tu puoi applicare, lo puoi applicare perché te l'ho insegnato io e funziona. Beh, oggi questo non può essere più fatto. Oggi non esiste più nulla che non si debba adattare continuamente al tempo in cui si applica. È per quello che l'insegnamento dovrebbe essere contestualizzato in un ambiente in cui l'organizzazione fa sì che lo studente impari a fare, impari a mettersi insieme agli altri, impari a discutere, impari a litigare, impari a gestire alcune cose, eccetera, eccetera. Perché solo così poi è pronto per affrontare un mondo in cui la precarietà gli richiederà quella flessibilità che lui altrimenti non avrà. Te lo dico come paradosso, questi professori che mi stanno scrivendo su Facebook, dimostrando già di avere una marcia diversa ai loro colleghi, lavorano in un laboratorio che si chiama Giuda Lab. Giuda come sintomo di traditore. Noi pigliamo il simbolo del tradimento, perché soltanto tradendo riusciamo a capire che si innova. Marco. Pronto? Marco, ti ascolto, sì. Sì, buongiorno. Guardi, veramente mi ha risolto un problema prima, perché mi chiedevo sempre... Problem solving, si diceva una volta. A proposito del fatto che i figli sono affettivi, no, i ragazzi di oggi. Io mi sono posto il problema fino a ieri, per cosa ho fatto, dove ho sbagliato con i miei figli, nel vederli così freddi, così senza sentimenti. Ogni genitore se lo pone. Ma vede, però adesso mi sono dato anche una risposta. Un'impresa, un imprenditore, un'azienda, un prodotto manufatturiero, lei pensi che un Armani, un Versace, un Valentino erano inaffettivi? Quando sei nella vita lavorativa, quando devi fare l'imprenditore, devi fare impresa, noi che siamo famosi nel mondo, quando abbiamo questi ragazzi così senza sentimenti, inaffettivi, e dove andiamo più? Mi capisce che voglio dire? Cioè, è un grosso problema avere questi giovani viziati in questa maniera. Sì, quindi, ma guarda, io penso che... Mi sentivo dire anch'io da mio padre, che dice, ma chi sei? Sembri senza anima, senza cioè è un punto di vista secondo me da vecchia generazione rispetto alla nuova, è vero per Luigi? Sì. Guardi, io ho un figlio che ha fatto ingegneria meccanica, attualmente lavora all'Avio a Torino su un motore aereo, e quindi io, se riesco a tirargli fuori tre parole al giorno quando gli telefono, è già tanto. Se aspetto poi una sua telefonata, potrei aspettare anche delle settimane. Questo non vuol dire che non abbiano affetti, non abbiano sentimenti, hanno un uso diverso, una gestione diversa della loro affettività e dei loro sentimenti. Noi in realtà siamo debordanti in fatto di sentimenti, perché ormai, come dire, forse abbiamo sbagliato in termini di razionalità. E per noi i sentimenti sono una maniera disperata per restare attaccati al nostro posto, alla nostra vita, al nostro privilegio, al nostro lavoro, che non vorremmo lasciare. Grazie per Luigi Celli, grazie a quelli che hanno ascoltato, a domani. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.